nomi delle cose. La Conta, Sapienza Clandestina. Vi invitano alla festa a sostegno di Radio Onda Rossa. Giovedì 18 dalle 18. Al Tre Serrande occupato, via Regina Elena 336. Aperitivo musicale con l'Orchestra Filarmonica di San Lorenzo. A seguire DJ set di Rob e Braciolata.